Tommy che c'è, boh, a voi quando entra in qualsiasi volta volta la verità, a chi c'è mal toccato? Oh muto, fallo con un buco. Se ti fallo con la bocca, fallo con un buco, tu odio. Oh, a pigliarla, eh. A pigliarla, mi. Vuol dire che quando parla con noi le parlo sopra e così non lo fa più la prossima volta. Aio te cazzo, ma avete rotto le balle. Ma chi è sta? Sei famo lei, care. No, non è lui. Se vuole quasi 9.30, no? Che 9.5 isci. E l'altra, ce ne avevi testa 9.30 qua. No, è lui. Vabbè, non è lui. Vabbè, io vado a mangiare. Adesso c'è Luca, ti lascio con Luca, dai. Che vado a mangiare e ci sentiamo dopo. Ehi, adesso ci sentiamo dopo, ciao ciao. Voi gente che mangia di cagliola. Ehi, girami il coglione. Adesso rimango qua, continua a frusciare, dai. Fruscia. No, non è Stefano, perché a parte che quello è un microfono normale, Stefano lo va solo amplificato e tu. Vabbè, tocco la portante il suo comunque. Sia sia, non me la fotte nulla, quando uno sta parlando, ok, dobbiamo aspettare. Se no li fa vedere sopra, pure lui, allora poi fa vedere il lugar. Ma tu sei che stai fischiando? Ah? A me pare duro, geniale, boh. Maglia di cagliola, lasciamo. Adesso rimbassiamo a farti il beccio. Tanto sembra che era brutta la mano, mi noga buro. Che tuo nipote ti sta chiamando. Sentiamo dopo, già sarò qua in ascolto. Cos'è che hai detto tu, era ora? La cosa? La cosa, problemi va. Davvero? E tu la sei ira? Faccio bene a tutti! Lui è via. Io è già arrivato Roberto mio, ho già. E io sto girando un po' di voti, sta arrivando, Claudio? Sì, la metà del tuo segnale è quando sei nella Budigundi, sai se è la metà? Santiago 9, ma nella Budibuddio lo sai a me quanto mi arrivano gli altri? 9.30, 9.20, ancora Roberto era più forte di Luca nella Budibuddio, lì a dove c'è il ferro vecchio, fate un conto. Ma io sono oltre. Vabbè già, devo aumentare la potenza perché l'antenna sicuramente va bene, ma c'è pochi watt, capito? Bravo, mi già, sta arrivando. Se ti rispondo vuol dire che è arrivato. Va bene, allora. Che era, amico, che era? Alessandro è... E poi c'è il figlio di Gianfranco. E a voi perché tuo canarino fruscende. Ci aveva lasciato il guglione, gli ha fatto me. Sì, Santiago 9, non ti caga nessuno e se vuole no che rompi le balle, cazzo. Non ho capito cosa, qual è il tuo problema. Cioè ti passano dalla macchina e si continuano a farti il tendino che ti brucio. Ma qui c'è dal quarto solo io, e se continuano a bruciare. È una razza di macchini, che... Cosa ne dai tutti i più tenizzati? Ma rendiamo poi questo ovviamente in dillo, vai e andiamo a fine. Ma perché devi fare sempre, dobbiamo sempre fare gli indiani, cazzo? Basta fare da lì sopra. che abbiamo devo fare? Mi fa vedere sopra e basta, cosa, che problema c'è? All'ingresso del porto sta arrivando basso, io ce l'ho avanti, ma se in basso non per colpa dell'antenna del baracchino, sei in basso perché c'è poca potenza già. Dovete aumentare almeno una trentina di watt, 50 watt. Io sto basso. Se non c'è potenza, la radio è già buona, la radio va bene adesso, anche l'antenna sicuramente va bene. Bisogna mettere un linearetino, uno di quelli a MOSFET, di quelli piccolini, che dia una tantina di watt, ma va bene. Il problema è risolto. Ah, Santiago 4, sì. Io faccio già fatica a ascoltarti. Gli altri mi ricevono 9, 10, 9 dentro produttore, se tu 4, te l'ho detto, il difetto di quell'antenna è quella lì, dentro la città non funge, fuori sì, però dentro la città no, e vai direttamente là già, dove sei tu, è lì lui, mi è già arrivato da poco fa, ecco, va bene, riprendi lui. Grazie. Vabbè, non c'è problema, lasciamo qua. Però non ti sei avvisato, non attacca niente nessuno, non si dice il bello a nessuno. Quanto si scemo per carità. Ti ho detto già. Rompere i coglioni con Santiago Nova, cazzo. sguardi, uno va dentro i giri delle persone, dove si è forte, tu sei un caico, che soframodula non dà la macchina, poi non sai neanche scrivere, sei analfabeta, gatto. Dove sei analfabeta, sì? Ti sei ammazzato con le mani tue, tu sì, ti sei morto con le mani tue, gatto. Arratta il gabbo che vai, adassa la bocca. Oia, oia, grazie a chi fosse una brutta gara grafica di chi si era scritto con i appigliati, imbecille, gatto. Il proprio analfabeto, si vede come scrivi e si vede come pensi, gatto. Tu vai, Giussi, gatto. Non l'hai trovato già? Che? Ma dove sei andato tu? Dove va Franco? Vabbè, se stava parlando al baracchino, era in macchina sua, sì. Fuga! Perché ha detto a me stai chiamando? Dimmi, fra. Pagappo, Luca, c'è drumito, altro che carregando lo portatile, le cuce l'ha buggato. Appena, non sono neanche le 10. Ma lui se non si corre che presto, poi la mattina non si può alzare e andare a mungere, capito? Se no poi fa l'ora. Ci ho fatto un cazzo, Anzura. Ci ho fatto un cazzo. Cazzo. Cazzo è? Ok. Zucchero occulto e poi mi hai chiamato e luce, sai. Poi mi hai chiamato al marmo, la faccio asciugare e si è tolto. Zucchero fuso. Cazzo se lo zucchero botto nel degamino è cotto. Ah, io glielo facevo quella imbecille di mia madre. Oh, meglio fatta una montata comunque. Meglio trombare che mangiare il cattò. Allora, prima trombare. Allora niente. Tacla. Cazzo di aero, ma bocca di nero sul cazzo di Barretto. Ha detto Franco che si è mangiato il cattò. La gente già è meglio fatta una montata ne ha tanto. Ah no. Perché il cattò si raffredda, invece l'uccello non si raffredda. Si conferma. Le mando la vibosa in culo alla giureta. Io mi avevo mangiato lo gatto. Lo califfo. E allora cosa cazzo c'è mai niente? A pigliare al culo dove lo gatto. Gatto si sta mangiando. Che cosa sai che lo gatto che ti stai mangiando? Cioè, siamese peloso o peloso siamese? Ah, cos'è siamese? Persiano. Cazzo, ma sempre a bocca piena, G. A bocca piena, Daniel. Boh, una scena, Papà, devo smetterlo. E già giù visto sul fondo di Gu. È sempre meglio tua sorella, eh. Tu è che invece. Anche non ve lo curo un colpo di clicco e ammazzi. Se no mi dici, toccami la mano, e gliela stringi. Chi è? Poi è Maria Giggia. Lui, io Claudio. E perché stai parlando a voce bassa? Chi ti ha addormentato? Bertina. Così è. Allora fai la nanna, che tu la nanna fai. Mi si toccare di luci pure a me, non si crede che c'è un cazzai. No, mio, ho mangiato un po', mi sono ripreso. Ma ancora me lo dormendo la gadria perché con la puntura mi fa dormire. Vedi, idea a chi la puntura lo fa svegliare, ma a me fa se non mi... quando mi tocca nello guro è un casino. Perché le fate sul caso? La puntura mette della vai, e da Ronaggio della vai. E se facevo io la puntura? Puntura di muscolo e voltare. La puntura la facevo io. Chi è tua sorella la fa? Cazzo la schiena la fa la puntura, boh. Anche a male a lui. Non lo sento io a lui, no. A Franco non lo sento. E Franco è trascinato dello salone. No, fa visto che non mi sento. Ok. Daniela lo sente. Daniela, senti a Maria Luisa. Daniela. Dalla Recce, brutto broscio. Gaba gaba, gaba gaba. Daniela non sente mai, è sordo. Cos'è? Daniela è sordo, non sente mai. Sordo giuro, Se non ci devo cazzo barretto, va in capo, ma forse è sordo. Se il cappello poi no, non va bene. Non ne ho berretto! È freddo il guglione, vai! È sempre freddo la testa, c'hai! Buh! Vai, un uomo di 50 anni, Chi? Tu! Sempre in barretto, sì! Ah no, aspetta, però poi metto anche la cuffia! Poi dei guanti! Tutti buoni, la goccia, la sciarpa, la pistighitta! No, così è! Allora, così va meglio, no? Oia, oia, a me Maria Lui, dormi, dormi, gappa, gappa. Ancora no, tra un po' ti cala la papera. Un po' cala il corazon. Aspetti. Tra un po'. Bon. Sì, certo. Ma mi hai sentito? No, cosa hai detto? Ho detto che tra un po' ti cala il corazon. La palpebra che cala un po'. Anche tu non è già calata, boh. Era no che Lucca è parito. Calata la palpebra che tu. Gappa, gappa. Cos'è mai niente? Sotto fa un latte di acqua, visto, freddo, allucinante. Deve salire qua, in questo coso qua, nella... Guarda, rapicchiando, esigata, quella va qua. E lascia la picca, ma è che c'è a batterra. Mi senti Maria Lui? Sì, a volte sì, a volte no. Perché? Maria Lui. Maria Lui. Non mi senti fra? Fra. Fra. Buonanotte a tutti. Ciao a todos. Ciao, buonanotte. Oh, ciao Maria Lui, che sta con le candelarie. Ma vado dall'altra parte. A dopo. Ciao, ciao a tutti, capo. Ciao, grazie. Io sto chiudendo. Ciao, buonanotte. Ciao Maria Luisa. Oh Franco, passa domani, non rompermi le palle. Passa domani. Che mi serve quella canna da pesca, capo. Mani della porto, capo. Dic, andar bene mela. E io fra, così la prepariamo. Siamo poi all'ultimo minuto, che dobbiamo fare il casino. Lì c'è da oliare tutto, pulirla per bene e preparare, mettere l'ancoretta sua, capito? La tottanara. Ci vediamo domani, dai. Ciao ciao a tutti, buonanotte. Ciao ciao ciao. Ecco, ma domani al lavoro vai? Sì, domani mattina sì, dai. Poi faccio giovedì e venerdì e basta. Giovedì e venerdì e buona. Poi sabato noi siamo liberi. Sabato noi. Va bene, ok. Va bene, facciamo domani. Ciao, buonanotte a tutti, io sto Ia. Ciao ciao ciao ciao ciao. Io ti chiamo domani, non rompere le palle, ciao. Ciao. Oh, Daniele, se mi ascolti, cappa. Daniele. Daniele, ciao, brutto broscio.